Siamo al cinema, l'appuntamento con Visionari su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso riusciamo a cominciare anche al termine del giornale radio, vista la grossa mole di ospiti che ogni volta facciamo intervenire in trasmissione. Per ascoltarci in diretta abbiamo dato le frequenze 87.9, ma anche lo streaming dal sito internet della Radio Onda Rossa.info, sull'home page ci ascolta alla diretta. Per quanto riguarda le notizie sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale, le informazioni le trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ed apriamo con una nostra vecchia conoscenza che dovrebbe essere in linea. Massimo Vattani, ci sei? Certo. Oh, che bello. Devo dire che sei diventato sempre più bravo, insomma, tutto procede nel modo migliore, è veramente molto tempo che non ci sentivamo. Sì, sì, sì, ne è passata di acqua. Senti, allora, noi ci siamo sentiti in varie occasioni per rassegne che tu hai avuto modo di organizzare in vari luoghi della città, e questo è l'ennesimo. Esatto. Siamo in questo caso, si tratta di una migrazione temporanea, diciamo, passiamo dalla sala alla strada, ma insomma anche per vecchi amori e vecchie abitudini è un passaggio che avviene assolutamente in maniera indolore, nel senso che la possibilità di programmare cinema al di là degli obiettivi che ti puoi prefiggere inizialmente, diciamo, non prevede una polarizzazione dell'uno a discapito dell'altra, per cui è una situazione diversa, si passa, a parte che la considero assolutamente temporanea, ma insomma in questo caso è un ritorno felice alla strada che in qualche modo, anche per necessità, obblighi, negli ultimi anni avevo un po' trascurato, questa in realtà. E, si tratta di una iniziativa che si svolgerà al Pigneto, che è realizzata in collaborazione con vari soggetti, che sono lo IEDI in via Pesaro, Arte Integra, che è un'associazione internazionale di artisti africani, e una nuova associazione, diciamo, appena nata, che sta nascendo e muove i primi passi, anzi posso dire che questa è la sua prima iniziativa nel curriculum che speriamo diverti sempre più lungo, che si chiama Associazione Beta Culture. È una messa insieme di alcune necessità e condivisioni che in questo caso mettono insieme appunto questa rappresentazione artistica che Arte Integra aveva già in è già nata precedentemente appunto in collaborazione con lo IEDI. Arte Integra è un gruppo di artisti africani internazionali che cura in particolar modo aspetti artistici, mostre e musicali, e che si mette insieme a questa breve rassegna di documentari che si chiama appunto Pigneto Visionario, il documentario in strada, che per conto, per questo aspetto specifico, gode di alcune collaborazioni, in particolare che i film sono stati scelti insieme a una distribuzione nuova appena nata che si chiama Wanted Distribuzione, che si caratterizza appunto per un listino, come dire, una brochure, una serie di film che è a disposizione, di film documentari che in questo momento sta discutendo a molto successo nelle varie programmazioni nazionali, e questo anche a monte di un atteggiamento assolutamente positivo. Io direi, aggiungerei, anche completamente differente da questo meccanismo delle distribuzioni che preferiscono favorire ambiti magari molto più istituzionali o che spesso aderiscono a richieste di premiere e cose del genere, che in questo caso invece abbiamo riscontrato una comunione di intenti, scegliendo appunto quattro dei loro titoli più recenti, che nello specifico sarebbero l'attesissimo Finding Fela, il documentario su Fela Nikulapo Kuti, subito dopo il film di Alex Gibney, Bansky Tos New York, Muscle Shows, Art of Rap, che è il documentario con cui chiuderemo questa iniziativa il 6 agosto. Va detto che sono quattro appuntamenti che inizieranno domenica prossima, domenica 19 alle 20:30 con Finding Fela, e che successivamente negli appuntamenti seguenti si svolgeranno invece ogni giovedì 23 luglio, giovedì 30 luglio, e l'ultimo appuntamento è per domenica 6 agosto. Dicevo che questa iniziativa divide il terreno e le pratiche spettacolari artistiche insieme a Acmisticius, che è il titolo dell'iniziativa che caratterizza l'intervento di Arte Integra, che prevede la partecipazione di alcuni musicisti, nella maggior parte senegalesi, quindi concerti di musica senegalese, cora, alcuni DJ di musica rap, sostanzialmente però anche l'apertura di una mostra che si terrà nello spazio del Mini Yeti, che è subito a fianco del locale del pub, e che si tramuterà un po' in una arena, insomma, esperienze a cui hai già partecipato precedentemente e che hanno sempre un loro fascino particolare. Se continuo io a parlare non può farmi domande, devo dire. No, a questo punto io ti chiederei intanto i riferimenti internet per la programmazione, i luoghi e gli orari. Sì, diciamo che tutto questo si può ricavare sui social network, digitando Pigneto Visionario, che spiega bene l'evento e la sua programmazione. Non volevo però dimenticare uno degli aspetti fondamentali. Tu, sì, come gli ascoltatori e le ascoltatrici, sai come il quartiere si trovi al centro di una serie di problematiche, spesso riprese anche in maniera diciamo opportunista dalla stampa, ma che comunque manifestano una sorta di disagio di relazioni con le varie comunità straniere che vivono e lavorano, un lavoro inteso a 360 gradi sul territorio. Ed è una proposta, insomma, che più di intervenire dialetticamente si pone il problema dell'azione reale e a forme di valutazione di queste comunità, senza stringerle troppo in quelle che sono i luoghi comuni in cui spesso sono strette. È la sostanza di questa iniziativa. La parte artistica è ovviamente sempre curata con attenzione, le proposte documentarie sono di alto livello, ma insomma è l'insieme di questi tre aspetti che dà poi il senso e l'importanza a questo appuntamento che abbiamo messo insieme. Le date te l'ho dette, gli orari sono sempre a partire dalle 20:30 con l'apertura delle mostre, che hanno, diciamo, delle rotazioni. Si aprirà domenica alle 20:30 con un vernissaggio delle mostre, e poi ogni appuntamento, appunto, ci sono delle rotazioni che proporranno nuovi lavori e nuovi artisti. Note tecniche di particolare interesse sono uno schermo 4x4, un buon proiettore, uno spazio che diventa arena senza più la presenza di macchine che possono incombrare la partecipazione, allegria, un modo di sconfiggere anche il caldo afoso, insomma, quali appuntamenti a cui già riteniamo in maniera particolare, direi queste un po' sono le caratteristiche principali. Bene. E in chiusura noto anche con piacere che questo sostantivo aggettivo visionari è la seconda volta nell'arco di poco tempo in cui mi capita di imbattermi dopo la trasmissione di Rai 3 di Corrado Augias. È la volta di questa rassegna al Pigneto. Sì, l'abbiamo scelta per rendere omaggio a te e alla tua trasmissione. Massimo, io ti abbraccio, in bocca al lupo, e ci risentiamo per le prossime novità. Grazie, Fede, stai bene, se vieni, come sai, ci fai piacere. Bene, bene, non si sa mai. Buone cose. Ciao, caro. Ciao. Questo Massimo Vattani per la rassegna Pigneto Visionario. Parliamo adesso di un festival o festa, la 12ª edizione di Festa di Cinema del Reale a Specchia, in provincia di Lecce, dal 22 al 25 luglio. Ne parliamo ogni anno sempre con lui, il regista Paolo Pisanelli, che ne è direttore. Paolo, ci sei? Sì, ciao Federico, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli aficionados di Radio Onda Rossa, che sono molto amanti del cinema, dai, del teatro, da quello che mi risulta, no? Poi con te ancora di più. E poi c'è questo rapporto speciale che si è creato con il documentario e poi con la tua festa a Specchia. Ne parliamo ogni anno, sono 12 edizioni. Raccontaci un po', per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, come ha avuto origine questa iniziativa. Allora, intanto corpi, inganni, movimenti, sono tre parole che quest'anno sì, ci fanno un po' da faro, ci hanno ispirati queste tre parole. Ogni anno scegliamo tre parole in base alle proiezioni, agli eventi, alle persone che invitiamo. È una festa di Cinema del Reale, però è una festa di scambi creativi prima di tutto, sì. Perché non è un festival competitivo. Noi premiamo tutti gli autori che invitiamo, quelli diciamo nazionali e internazionali, e poi diamo un kit di sopravvivenza per gli autori pugliesi, perché non li possiamo premiare, ma gli diamo il kit di sopravvivenza. È bella l'idea del kit di sopravvivenza. Eh sì, una maglietta, un catalogo, un ventaglio, un mirino di pietra, ecco, queste cose in genere li dotiamo di questo. No, è uno spirito di festa. Noi nel corso degli anni ci rendiamo conto che più qua peggiorano un po' le cose per la cultura, per il cinema, poi il cinema reale che da sempre ha poche risorse, quindi se la deve sempre saper cavare, no? Però più peggiorano le cose, più a noi decidiamo invece di festeggiare chi fa il cinema, chi fa arte, perché ci sono anche tante performance, anche di teatro, mostre, quindi cerchiamo che sia un luogo di incontro, di scambi, e pensiamo che sia la cosa più importante, sì. Insomma, no? Il fatto di comunicare, non di guardarsi in cagnesco perché il mio festival è migliore del tuo, no? Noi collaboriamo con tantissimi festival, infatti quest'anno, e quest'anno non è dal 22 al 25 basta la festa di Cinema Reale, ma poi andrà a Presicce, a Gagliano, poi a Trepuzzi probabilmente, a Matino, quindi è itinerante. È una festa che diventa nomade, sì. E questo ci piace molto. Il focus è la Grecia, sì. Ed è questo incontro, abbiamo invitato tre autrici greche giovani, quindi questo nuovo cinema greco che è bello, è enigmatico, un po' misterioso, che non parla soltanto della crisi, ma parla proprio di un modo di vivere, anche perché in Grecia diciamo è un laboratorio per tutti in questo momento. La Grecia probabilmente ci sta dando un po' a tutti la materia, no, per riflettere, anche per ripensare l'Europa, per ripensare la democrazia, il modo di comunicare e anche di trovare il modo di non farsi schiacciare soltanto dal problema economico, sì. Perché se stessimo soltanto noi di Cinema del Reale personalmente a pensare solo all'economia e ai budget, probabilmente non avremmo fatta più di una edizione, sì. La prima, sì. E poi decidi che basta, è meglio non proseguire. Invece vabbè, io tu lo sai, no? E il Cinema del Reale è proprio questo sfidare un po', mettersi in progetti a volte difficili, a volte impossibili, lavorare sul tempo, perché il tempo ti dà grande qualità nelle narrazioni. Quindi dove i film dicono si gira 3 settimane, 5 settimane, 10 settimane, invece i film documentari a volte sono proprio esperienze umane, sfide al tempo, no? E quindi vedi film che uno ha girato per 2 anni, sì, e poi, sì, sì, sì. E poi va a montare. Oltre a questo contributo, questo focus sulla Grecia, abbiamo dei film musicali molto belli, c'è tutta una vena di film musicali, i movimenti, no? Quindi la musica, però anche la musica rivoluzionaria, Finding Fela, abbiamo avuto una partnership con Wanted, quindi questa nuova casa di distribuzione porteremo il film. Li sentiremo tra poco, pensa. Ecco, noi proprio andremo Fela Kuti e Masco Scholz, che è invece il film su questo mitico studio di registrazione americano, no? Dove sono stati registrati grandissimi successi musicali. Quindi sono due film importanti, no? Che siamo molto contenti di fare vedere. Quello di poi su Fela Kuti, insomma, è un film su un artista veramente rivoluzionario nigeriano, che ha subito un sacco di di soprusi, di violenze, però lui ha cantato l'Africa in un modo, diciamo, unico, impareggiabile. Sì. A proposito di film musicali, poi c'è anche un recupero di un film tedesco dell'87, La Banda, di Klaus von Finkel, che è un autore che vive d'estate, sempre viene nel Salento e ama moltissimo il Salento, e fece nell'87 un film di quelli cinematografici, un documentario per la TV tedesca in pellicola, sulla prima direttrice di Banda di Surbo, quindi di un paese salentino, un paese che ha una grande tradizione bandistica, e lei fu la prima, quindi anche, diciamo, fu una specie di rivoluzione, no? Questo fatto che una donna dirigesse la Banda, che insomma, sì, in genere tutti quelli della Banda sono uomini, e soprattutto poi il maestro della Banda. Quindi ci sta questo, ci sta un grande omaggio a Patti Smith attraverso un collettivo, il Soundwall Collective, che praticamente lavorano a livello internazionale, sono, diciamo, quelli che musicano i reading di Patti Smith, faranno a Gagliano del Capo nella mostra Altrove a Gagliano del Capo, e questa è una collaborazione bellissima. Loro verranno a presentare un live di Patti Smith di 15 minuti e saranno presenti, quindi insomma, siamo molto contenti di questo, e siamo contenti anche di raddoppiare Cinema del Reale, che è un evento, perché si è sempre fatto nel Castello Risolo a Specchia, invece quest'anno andiamo alla conquista di un convento volante, noi l'abbiamo chiamato, perché è stato vuoto, chiuso per tanti anni, e ora si riempirà di musiche, di proiezioni di cinema, di un'installazione, un omaggio a Derek Jarman, Blu, gli dedichiamo una chiesa che diventerà blu. Dopo tanto silenzio, un convento abbandonato e chiuso si riapre alla musica e alle immagini, insomma. Sì, questo ci tenevamo molto, perché veramente avere la possibilità di utilizzare di un borgo bellissimo come Specchia, Bandiera Arancione, borgo uno dei più belli d'Italia, avere il castello e anche questo convento dei Francescani Neri, che è bellissimo, con un chiostro di agrumi, con dietro un cortile, molto molto affascinante. Allora questo diventa così un motivo, no, per raddoppiare gli sforzi. Avere due schermi, che è una cosa che in genere non facciamo, per non mettere, non abbiamo mai fatto, e ci piaceva sempre stare un po' tutti concentrati. Però è proprio il paese che, anche nei fantoipogei, ci saranno molte esposizioni, viaggi, il Bosco delle Sirene, recuperiamo Maria Corti, certi scritti sulle sirene, ci saranno le illustrazioni di un artista, Noel Gazzano, c'è Pino Guidolotti che ha fatto la mostra a Milano, un grande fotografo, Pino is back, che ci porta tre corpi fotografati, visti da lui. Ci stanno tantissime cose, c'è Maurizio Buttazzo delle Manifatture Knoss, lui è un artista che da sempre collabora al Cinema del Reale, e lui sta lavorando in un laboratorio da parecchi giorni, sta lì a Specchia e ricicla, cioè si fa ridare tutti i mobili che andrebbero così buttati e ne fa degli arredi urbani, okay, che poi verranno utilizzati durante la festa. Bene, bene. Senti... vabbè, poi dei film non ti ho detto tanto, però insomma, piccoli così, Io sto con la sposa, Triangle, beh, i film dei grandi autori italiani, no? Di questi, ne hai citati anche... due che sono stati nostri ospiti anche a più riprese, quindi certo, sappiamo di cosa stai parlando. Sì, sì, sì, sì. E poi vabbè, poi anche i pugliesi, insomma, non ce li scordiamo, perché è un evento anche fatto per gli autori pugliesi, certo, che sono tanti, sono bravi. Oltre al kit di sopravvivenza, sì, fate vedere anche le loro opere, insomma. Certo, no, ma perché insomma hanno un respiro internazionale anche i film pugliesi, quindi è giusto che vengano visti, vanno dalla Focara a un racconto sulla Mara, che è una trans famosissima di Lecce, ma c'è Gianni De Blasi appunto, che con Altamente, sulla Focala, questo è il più grande fuoco del Mediterraneo, no? Questa festa che si fa a Novoli d'inverno. Lo dovremmo sentire prossimamente per Altamente proprio. Ah, ecco, sì, e sì. Poi vabbè, ci stanno varie cose anche che riguardano proprio Italia-Grecia, quindi Paola Crescenzo che ha filmato un pranzo a Brindisi e un pranzo in Grecia, cioè ci stanno molti film un po' tendono un po' a raccontare di questo ponte, no? Che c'è tra noi salentini e la Grecia, sì. Ma anche c'è la Grecia, no? Sai che la Grecia salentina. E infatti tutta la festa di Cinema Reale quest'anno è dedicata a Franco Corleanò, che era un grande amico, è scomparso proprio un mese fa nemmeno, e lui ha scritto Clama, che è una canzone famosissima in Grecia, cantata da Maria Faranduri. Era scrittore, ha scritto un dizionario in greco, italiano-greco. Quindi ci piace molto ricordarlo, e anche se appunto a volte nessuno è profeta in patria, cioè in Grecia è famosissimo, come tipo un Domenico Modugno, qui molto meno conosciuto, sì, però sì. Insomma, lui veramente ha costruito un ponte culturale tra Salento, tra Italia, Salento, Grecia e Grecia, e quindi insomma è bene ricordarlo, e nel modo migliore, facendo sentire anche, no, la canzone, rivedendolo. E poi vabbè, per il resto, sai, performance pure di teatro per strada. Quest'anno abbiamo una voce, a parte Leonardo Di Costanzo, insomma, che io non lo dico, ma insomma poi è un grandissimo del cinema italiano, a cavallo, facciamo vedere sia l'intervallo che Cadenza d'inganno. Però c'è Danio Manfredini, ecco, c'è le voci di Danio, che così si inventerà, non lo so che cosa, un cinema cielo performance ogni sera di 10 minuti, un quarto d'ora, in cui sentiremo le voci di Danio, ecco. Quindi senti, a questo punto Paolo ti chiedo i riferimenti internet per seguire la programmazione, e ci diamo anche appuntamento, facciamo così, visto che hai citato Altamente, facciamo che per la settimana prossima Gianni De Blasi cerchiamo di contattarlo, così riparliamo nuovamente di Festa di Cinema del Reale. Voi ci potete seguire su www.cinemadelreale.it, e beh, lì si trova di tutto, ci stanno anche ora tra un po' uscirà anche il nostro spot con le musiche di Fela Kuti. Intanto ce n'è una più classica con Guglielmo Tell, però insomma, che rendono un po' l'aria, l'atmosfera, la festa. E poi diciamolo, il sabato 25 c'è sempre un appuntamento imperdibile, che comincia dopo la programmazione dei due schermi e finisce all'alba della mattina dopo sul terrazzo del castello di Palazzo Risolo. Una festa in terrazza che insomma, sì, diciamo che quando spunta il sole, ecco, poi quello è il momento di andarsi a fare il bagno. C'è cioè, una lunga notte quella, una lunga notte, e poi un lungo giorno. Paolo, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci magari anche già giovedì prossimo. E poi forse ci vediamo già a Specchia, no Federico? Ci stiamo lavorando. Lavoriamoci, vai. Un abbraccio forte a tutti e ai radioascoltatori. Ciao, grazie. Ciao. Il regista Paolo Pisanelli, direttore della 12ª Festa di Cinema del Reale a Specchia, in provincia di Lecce, dal 22 al 25 luglio. In collegamento con il regista Paolo Gaudio per parlare del crowdfunding del film d'animazione Dagon. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, bentrovati, grazie per l'invito. Un'operazione che mi incuriosiva, un film d'animazione, di cosa si tratta? Raccontaci un po'. Ma guarda, in realtà è un'operazione un po' bizzarra, perché è un adattamento da Lovecraft, che prova, come dire, ad avvicinare due miti apparentemente distanti, cioè che sono appunto lo scrittore di Providence e il grandissimo Arnold Schwarzenegger. Quindi due realtà molto distanti che si uniscono in un cartoon un po' scorretto, bizzarro, che prova a mettere insieme cazzotti, muscoli e proiettili e i grandi antichi di Lovecraft. Sì. Senti, e l'idea come è venuta fuori? Ma guarda, in realtà è un, come quasi tutte le mie cose, è un percorso, come dire, un po' personale. Insomma, da bambino, come dire, sono cresciuto con i film del cinema fantastico degli anni '80 e anche, sì, diciamo così, qualcosa del cinema d'azione, che in realtà non potevo vedere, insomma, che erano i vari Terminator, Predator, oppure La Cosa di John Carpenter, eccetera. Quindi erano John Carpenter e John McTiernan che soprattutto, come dire, in questo genere erano i miei preferiti. Tra l'altro i primi due Terminator forse sono state le punte più alte della cinematografia di Schwarzenegger in chiave fantastico e anche visionaria. Sì, io aggiungo Predator e Atto di Forza, però anche Atto, insomma, di Forza, giusto. Ecco, sono d'accordo con te, insomma, che lì Schwarzi è diventato un'icona, soprattutto perché comincia ad avere, come dire, una profondità anche di paura, che era quella lì che a me, come dire, attraeva molto. E così crescendo poi ho incontrato in un certo senso la paura raccontata da Lovecraft. E quindi in un certo senso l'orrore profondo del solitario di Providence, e in un certo senso ho linkato queste due sensazioni, cioè la repulsione e attrazione che provavo da bambino per i mostri che Schwarzenegger provava o ad interpretare o ad uccidere in qualche modo, e i racconti di Lovecraft. Senti, qualcosa in più sulle tecniche di animazione e sul tipo di animazione? Sì, Dagon vorrebbe essere un film in stop motion, in realtà sì, in claymation, per essere più tecnici, nel senso vorremmo lavorare con pupazzi realizzati in plastilina, insomma, sì, quindi in un certo senso avere una mobilità del puppet più, come posso dire, stravagante, più cartunesca, meno sai, moderna o ipertecnologica come ultimamente viene presentata la stop motion. E inoltre credo che faremo alcune cose, ne parlavo, insomma, noi siamo in continua evoluzione con questo progetto, e quindi credo che faremo alcune cose anche in cut out, in particolar modo nel primo atto del film il racconto, insomma, di Lovecraft verrà quasi interamente o in parte realizzato in cut out, mentre tutto il resto del film sarà in claymation. Insomma, almeno ci proviamo, ecco, per questo è importantissimo che tutti appassionati di Lovecraft e che amano, insomma, il cinema di genere e l'action in questo caso sostengano la nostra campagna. Sì, senti, per l'animazione la squadra da quante persone è formata? Così, una curiosità. Guarda, per il momento siamo in due, sì, no, okay, che è meglio di essere uno. Però ci auguriamo, diciamo così, ecco, dopo in questo momento la campagna è necessaria per poter fare una roba che in Italia su progetti come il mio, insomma, un pochino meno allineati, insomma, rispetto alla produzione come dire ortodossa, quotidiana, eccetera eccetera, sarebbe un lusso, insomma, ecco, cioè fare lo sviluppo di un film. Però ci auguriamo che dopo lo sviluppo di riuscire a coinvolgere, come dire, realtà produttive come dire più strutturate, sì, e quindi avere, diciamo così, comunque un controllo estetico, espressivo, totale, libero, ma diciamo così calato all'interno di una realtà produttiva maggiormente performante. A questo punto, Paolo, ci dai tutti gli estremi per la piattaforma sulla quale contribuire alla realizzazione del film? Certo, guarda, è semplicissimo, basta andare su kickstarter.com e cercare all'interno del sito o mettendo il nome del nostro progetto, quindi sul search di Kickstarter mettere Dagon, oppure cercare, diciamo così, le campagne tra film e video. Poiché la campagna è come dire, sostenuta anche da Kickstarter, noi siamo la prima campagna sostenuta da Kickstarter in Italia, è quasi sempre non page, quindi non è molto semplice raggiungerla, oppure si può passare dal motore di ricerca che preferite mettendo la parola, tre parole chiavi, cioè Dagon, il mio nome e cognome, Paolo Gaudio, e il primo risultato è già quello che vi serve. Bene, un abbraccio Paolo, ci sentiamo magari ad Opera Realizzata. Speriamo, incrocio tutto, le dita, qualsiasi cosa. Lasciami dire solo una cosa che, cioè, a cui tengo tantissimo, quindi uso il tuo microfono e lo faccio megafono. Mi rivolgo, diciamo, a tutti i fan di questo genere, a tutti gli amanti di Lovecraft, dei cartoni animati un po' così bizzarri, non proprio in linea con l'infanzia, eccetera, che hanno intenzione di sostenere la campagna, di farlo adesso, perché molte volte, come dire, si disperde questa volontà, invece noi dobbiamo riuscire a concentrarla, quindi donate adesso. Paolo, un abbraccio e a presto. A voi, grazie mille, ciao ciao ciao. Il regista Paolo Gaudio sulla campagna di crowdfunding per il film d'animazione Dagon. È con noi Giovanni Dallavo Manfroni di Wanted Cinema sulla rassegna documentaria in anteprima dell'underground newyorkese a Luci Cinemas per le date del 20 e il 27 luglio. Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie dell'ospitalità. Ti dico subito che i primi due interventi in trasmissione sono stati quelli di Massimo Vattani, che al Pigneto qui a Roma ha organizzato la rassegna Visionari Pigneto, alla quale è presente anche Wanted Cinema, e poi abbiamo sentito Paolo Pisanelli per la festa di Cinema del Reale, che anch'essa ospita lavori di Wanted Cinema, ad esempio quello su Fela Kuti, il documentario su Fela Kuti. Quindi, insomma, partiamo già con diversi riferimenti a voi. Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Allora, raccontaci un po' di questi tre lavori, sono stati tre e uno purtroppo non l'abbiamo avuto in tempo per parlarne, è già passata, era un documentario sulla street art di Banksy, però ce ne sono ancora due in programmazione. Sì, esatto, adesso avremo il 20 sempre negli UC Cinemas di molte città italiane, dei capoluoghi più grandi, NAS, mentre invece il 27 ci sarà White Style. Sono entrambi due film molto importanti per quanto riguarda la cultura rap, hip hop, underground, soprattutto statunitense ovviamente, come era anche Banksy, con un riferimento particolare alla città di New York. Noi abbiamo deciso di raggrupparli tutti in un, diciamo, in un lunedì di cinema molto particolare che ha visto coinvolto appunto UC Cinemas, e Wanted Cinema si fa un po' portavoce, diciamo, di questo tipo di cultura in Italia per quanto riguarda il cinema documentaristico. Io posso dirvi solamente due o tre brevi accenni a questi film, perché non voglio neanche rovinarvi troppo il gusto della visione. Nas parla semplicemente della vita del rapper Nasir Jones, famoso appunto con il nome di Nas. Il titolo originale è Nas Time is Illmatic, che è anche il titolo del suo primo album, ambientato ovviamente a Queensbridge, suo posto di nascita, luogo molto famoso e importante per la scena rap hip hop americana, dove si sono formati anche molti altri rap, come posso ricordare MC Shin. Il film parla praticamente dell'inizio della vita di Nas, di come si è formato il rapper, quali sono state le esperienze soprattutto giovanili che lo hanno condizionato, per cui vedrete il padre, il fratello, comunque i familiari più stretti di Nas, oltre a Nas stesso ovviamente, che raccontano la propria storia e l'evoluzione del personaggio. Per quanto riguarda invece Wild Style, che ricordiamo è anche stato citato da Nas tra l'altro nel famoso Time is Illmatic, Wild Style è un film degli anni 80, dell'82, ed è un caposaldo, possiamo dire, della cultura rap hip hop. È stato ridigitalizzato per l'occasione da Wanted Cinema, e noi siamo orgogliosi ovviamente di ripresentarlo al pubblico italiano nella sua nuova veste. È un caposaldo per chi lo conosce. Per chi non lo conosce, è un film ambientato nella New York sempre degli anni 80, sulla nascita più o meno del movimento del graffitismo che si stava avendo in quegli anni nella Grande Mela. Posso ricordare solamente Grandmaster Flash, che è una forse delle voci più importanti che si vede all'interno del film, del rap, proprio degli inizi, degli inizi di questa nuova cultura che si stava affermando. E posso anticipare anche, posso ricordare innanzitutto Banksy, nel senso che Banksy è passato il 13 luglio, ma come tutti questi film ovviamente queste sono anteprime e evento unico, ma usciranno in tante altre sale da fine agosto, e li potrete vedere in tutte le città italiane quando tornerete dalle vacanze, possiamo dire. E Banksy invece è passato, appunto lo ritroverete, ma è semplicemente un documentario un po' sulla scorta di Exit Through the Gift Shop, che è altro film che Wanted Cinema ha in catalogo, che forse quello l'avevo famoso, visto, sì, sì. Sì, ha sfiorato l'Oscar con una mano nel 2003, credo, no, forse un po' più tardi, nel 2009. E Banksy in questo nuovo film non è più, diciamo, il soggetto principale, ma è l'espediente per raccontare il rapporto del pubblico newyorkese con l'arte, con la street art, in particolare appunto con l'arte di Banksy, nel senso che il film si focalizza molto di più sulle reazioni che il pubblico ha e anche sul nuovo modo di interagire mediatico al quale tutti siamo sottoposti utilizzando Instagram, Twitter, Facebook, tutti i canali di comunicazione social che in questi anni hanno portato alla ribalta anche personaggi discutibili. Il film si sofferma appunto su tutto quello che comporta, diciamo, l'arte di Banksy all'interno anche del mondo dell'arte, per cui vedrete un famoso gallerista che distanza tedesco, ma distanza a New York, che da un certo punto di vista sfrutta il lavoro dell'artista. Poi non vi voglio dire di più, ovviamente, come ho già anticipato, per non rovinarvi troppo. Tra l'altro, Giovanni, a Banksy ho dedicato la copertina di Visionari di questa settimana con l'opera raffigurante uno Street Fighting Man che sta per lanciare un mazzo di fiori come inno alla ricerca dell'opera celeberrima, famosissima ovviamente, di Banksy. Io ho una maglietta con l'opera stessa, ci sono particolarmente affezionato. Se tu non hai niente da aggiungere, vi lascerei, non vi ruberei altro tempo. Sì, no, solo due curiosità, Giovanni. Sì, prego. Come mai la scelta di queste sale, e poi perché una rassegna sull'underground newyorkese? Ma allora, la scelta di queste sale dipende dalla necessità di portare anche il cinema documentarista, ma anche un cinema, diciamo, culturalmente impegnato, che è il cruccio di Anastasia Plazzotta, ovviamente la mente di Wanted Cinema, e che è già stata ospite qui ai Visionari, grazie a te Federico. Nasce dall'idea di Anastasia di appunto portare un cinema impegnato, diciamo di barricata anche da un certo punto di vista, anche in luoghi dove normalmente non ce lo si potrebbe aspettare. Da questo Luci Cinemas, che è un multisala, ricordiamo che da sempre i multisala si sono contraddistinti per un tipo di distribuzione molto commerciale, molto poco improntata a promuovere film culturalmente impegnati, che di solito si trovano solamente in piccole sale d'essè. Noi siamo partiti con un'idea molto radicale da un certo punto di vista, perché la prima nostra proiezione è stata all'interno, è nato tutto da un ciclo di proiezioni che noi abbiamo deciso di fare a Milano al Circolo Magnolia, che è un circolo molto famoso qui in Lombardia, creando questa rassegna innovativa che si chiama Lo strano caso del cinema al Magnolia. Sarebbe un ciclo di incontri ogni lunedì dove noi abbiamo proposto vari titoli, soprattutto in questo caso legati al tema musicale, per cui per quanto riguarda i film che sono andati lo strano caso del cinema al Magnolia, ovviamente non possono ricordare Muscle Shoals, che non abbiamo ancora citato, grande capolavoro della musica rock, soul e funky degli anni 50-60, e anche ovviamente i film che ho già citato, per cui Nas, Banksy. Noi abbiamo ospitato anche l'ultimo lunedì numero zero, Wild Style non c'è ancora, arriverà a breve. Sono tutti film che Anastasia teneva a far vedere al pubblico milanese. Da qui è nata anche ovviamente l'esigenza di non fermarsi al pubblico milanese, ma di coinvolgere anche altre realtà di altre città molto importanti d'Italia, per cui posso ricordare che i film che abbiamo citato prima per il 20 e 27 luglio potrete vederli a Genova, a Bologna, a Verona, a Torino, a Firenze e a Roma. Ovviamente tutti questi UC Cinemas si trovano nelle vicinanze delle città appena citate, perché si trovano un po' fuori città, però appunto la nostra idea era quella di andare a riprendere un pubblico che normalmente si era allontanato dal cinema documentarista, dal cinema impegnato e culturalmente ricercato, che è un po' il nostro marchio di fabbrica, da cui il nome Wanted Cinema. E credo che ci siamo riusciti, spero che queste serate andranno molto bene. Niente, io non ho nient'altro da dire. E noi ci sentiremo. Vuoi chiedermi tu, Federico? No. Rimango a disposizione. Diciamo, le curiosità me le hai soddisfatte e ci diamo appuntamento per le prossime iniziative a questo punto. Assolutamente. Niente, io non mi rimane che ringraziarvi anche per il livello molto alto della trasmissione. Grazie. Per aver citato anche il Pigneto, che è un altro cruccio di Anastasia Prazzotta. E vi auguro una buona giornata e una continuazione di trasmissione. Ciao Giovanni, a presto. Ciao. A presto Federico, grazie mille, ciao. Giovanni Dallavo Manfroni di Wanted Cinema sulla rassegna dei documentari in anteprima sull'underground newyorkese a Luci Cinemas per il 20 e il 27 luglio, ma poi come ci diceva Giovanni dopo le vacanze, quindi verso la fine di agosto, nuovamente sugli schermi. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Il regista Marco Pasquini, per parlarci del crowdfunding per il documentario Citizen Off, a firma di un altro regista, giusto Marco? Salve, ciao, buongiorno. Ben ritrovato. Gli ascoltatori, a voi, grazie Federico per la chiamata in trasmissione. E il crowdfunding di questo documentario, che come dicevi si chiama Citizen Off, è per la regia di due registi palestinesi di diversa provenienza. Uno è Ala El Ali, un regista palestinese profugo di terza generazione nato in Libano, e l'altro è Yasser Fares, un ragazzo palestinese nato nel campo palestinese ormai distrutto a Damasco di Yarmouk. Sì. Allora, raccontaci un po' come viene fuori questa operazione. Ma questa operazione viene fuori in modo un po' particolare, perché per percorsi diversi i due ragazzi palestinesi che io conosco personalmente, perché soprattutto Ala è stato il mio collaboratore per vari documentari girati in Medio Oriente, e Yasser lo conobbi insomma nelle mie frequentazioni del campo di Yarmouk, e loro per percorsi diversi ma nello stesso periodo hanno entrambi lasciato il loro paese di ospitalità, diciamo, che era il Libano per Ala e la Siria per Yasser, per cercare un futuro migliore in un altro paese, ed entrambi si sono rincontrati in Svezia, questo già alcuni anni fa, e hanno intrapreso un percorso come richiedenti asilo. E per Yasser il percorso è ancora aperto, e per Ala purtroppo si è chiuso in modo negativo poco tempo, insomma veramente da poco tempo. E quindi insomma purtroppo Ale in questo momento vive ancora in Svezia come clandestino, e ha insomma un foglio di via che ha deciso di non mettere in pratica, e per ora rimanere a vivere lì. I ragazzi hanno cominciato a registrare gli audio dei loro colloqui con le istituzioni svedesi durante tutto il periodo degli incontri, per stabilire se loro avevano i requisiti per avere i documenti svedesi o meno. E da queste registrazioni e dal paradosso che la Svezia è stata lo scorso anno il primo Stato europeo a riconoscere lo Stato palestinese, e dal fatto che quando hanno rifiutato la richiesta d'asilo ad uno dei registi, ad Ala, e il foglio di via non gliel'hanno fatta, la richiesta di espulsione non gliel'hanno fatta per la Palestina ma per il Libano, paese dove lui è nato ma al quale non appartiene. E insomma, diciamo, per raccontare un pochino la contraddizione che è insita nel sito stesso, no? Sidi Nof è un po' l'affermazione di non essere cittadino in qualche modo. Sì. E hanno deciso di raccontare questo lavoro in prima persona, quindi loro sono i registi e sono anche due dei protagonisti del documentario che vuole raccontare questa condizione di mezzo che vivono nella fattispecie i richiedenti asilo palestinesi in Svezia in questo momento, e quindi una condizione di lunga attesa che vuole insomma riflettere sulla vita in esilio in qualche modo. Sì. E questo ha raccontato, la cosa molto interessante secondo me di questo progetto è il fatto che è raccontato in prima persona da chi questa condizione la vive quotidianamente, e il documentario porterà i segni di questo divenire giorno per giorno e questi cambiamenti che avverranno nella vita dei due filmmaker. Senti, per i profughi, per gli esuli, la Svezia in questo senso è una meta ambita, e tu dicevi di lunga attesa. Ecco, la situazione al momento, visto anche considerato che è stato il primo Stato, come ricordavi, a riconoscere la Palestina come Stato, com'è la situazione al momento? E la situazione al momento è abbastanza diversa dalla situazione che c'era solo pochissimi anni fa in Svezia e un pochino tutto in tutta quella fascia insomma nord europea, perché comunque si sono alternati ormai dei governi di orientamento destrofilo, che hanno comunque chiuso abbastanza e hanno ristretto le politiche per i richiedenti asilo. E quindi purtroppo, visto comunque l'enorme afflusso di rifugiati e richiedenti asilo al nord, hanno iniziato comunque a rifiutare moltissime domande di persone, per esempio in questo caso come Ala, la quale vita era ormai impossibile nel campo dove viveva, nel campo proprio dove viveva Beirut, ma che non viene da una diretta situazione di conflitto, sì, in qualche modo, no? Sì. E quindi, diciamo, non inquadrabile in quella emergenza di richiedenti asilo che scappano dalle guerre. E quindi, insomma, la situazione è abbastanza drammatica, perché comunque gente ne continua ad arrivare. La comunità palestinese in queste città, le tesi sono, è sempre più cospicua, e le domande respinte sono sempre di più. E devo dire, in questo, almeno da quello che mi raccontano tutti i due amici, in queste dinamiche si sviluppa fortunatamente quantomeno una forte dinamica di solidarietà tra palestinesi all'estero, tra chi ha già avuto la richiesta, chi è in attesa, chi purtroppo gli è stata rifiutata. A questo punto ti chiedo i riferimenti per partecipare a questa campagna di crowdfunding per Citizen Off. La campagna di crowdfunding è stata pubblicata su Kickstarter, cercando sul web Kickstarter e con il titolo Citizen Off Stateless, e si accede, insomma, a una pagina informativa dove c'è uno script dove ci sono tutte le informazioni anche biografiche sui due registi e dove c'è la possibilità di contribuire a questo lavoro. E volevo anche dire che la campagna di finanziamento su Kickstarter, su questo sito, scadrà entro 23 giorni, quindi c'è ancora purtroppo tempo. Sono molto lontani dal raggiungimento dell'obiettivo che si erano prefissati. Quindi, insomma, chi è solidale a queste tematiche, lo pregherei quantomeno, se non si può contribuire, ma di cercare di diffondere la voce quanto sì. più possibile attraverso contatti personali, social media e quant'altro. Marco, io ti abbraccio, ci sentiamo magari in vista della realizzazione di questo lavoro. Speriamo presto. Un abbraccio e a presto, allora. E grazie ancora per lo spazio. Ciao Marco. Arrivederci. Il regista Marco Pasquini per parlarci del crowdfunding per il film, per il documentario Citizen Off. In linea c'è Stefano Ballini, regista del documentario La Brezza degli Angeli. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Un documentario che avevo ben in mente, lo stavo aspettando il momento per parlarne, e non siamo vicini al 25 aprile, ma non ce n'è bisogno, perché per noi la resistenza è sempre, perché è di resistenza che si parla, giusto Stefano? Sì, resistenza vista in un modo un po' moderno, perché si parla anche di resistenza al non sapere, ecco, diciamo, cerco di informare al massimo su quelli che sono stati gli accadimenti di allora in funzione del futuro, ecco. Bisogna resistere anche in quel senso. Stefano, allora raccontaci di questo lavoro dagli inizi, come è nata l'idea e come l'hai sviluppata? Allora, è nata dopo che io ho fatto un altro video che si chiama Il treno che bucò il fronte, e lì sono passato dai posti, diciamo, dalle stragi un po' più grandi, come Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto. Da lì poi in molti casi sono diventato amico di alcuni superstiti, di alcune persone, e quindi poi la cosa mi ha appassionato notevolmente. E dopo c'è stato l'associazione delle famiglie delle vittime dell'eccidio di Marzabotto, che mi ha chiesto di fare un video che raccontasse il 25 aprile a Montesole. Sì. E allora ho fatto un video che si intitola 16, un 25 aprile a Montesole, e dopodiché ho deciso di parlare anche non solo di Sant'Anna e di Marzabotto, ma anche di altre stragi che sono successe, diciamo, tra Toscana ed Emilia in quel periodo, stragi anche che non conosciute o di cui si parla ben poco, ecco. Ecco, per i più giovani che sono all'ascolto e non hanno ancora capito, si tratta delle stragi nazifasciste durante il periodo dell'occupazione. Sì. Esatto, che sono successe dal 18 marzo, che è la prima che si racconta, a Monchio, all'ultima, che è quella di Montesole in ottobre del 44. E oltre a Montesole e a Sant'Anna, che ho reinserito in un chiave più ridotta, ho messo anche Padule di Fucecchio, lo stesso Monchio, una strage dove non ci sono più superstiti in provincia di Arezzo, che è Vallucciole, e Vinca, un altro posto importante, e così via. E sono andato a cercare storie però che riguardassero bambini, soprattutto di bambini, e allora diciamo questo mi ha anche un po' guidato sulla ricerca delle storie stesse e quindi anche nei luoghi da visitare, ecco, e da far conoscere. Sì. Questo video nasce da un'altra storia di un altro bambino che è veramente vissuto a Greve in Chianti, che è vissuto tra il 24 e il 27, e che è morto di tifo, non di accadimenti bellici, e che diciamo in un dialogo così visionario racconta all'unico fratello che è rimasto in vita attualmente, che è nato dopo la sua morte, ora, nel 1941, gli racconta queste storie, diciamo. E questo è un viaggio che parte da marzo del 44 ad ottobre del 44, dove si raccontano storie di bambini, ecco. Storie di bambini. Questa è un po' la storia. Sì. Stefano, ecco, visto che ti stai occupando di questa pagina tragica della nostra storia in un'area geografica ben precisa, e rispetto ai paesi, a chi è rimasto, voglio chiederti nei luoghi che hai visitato la memoria quanto è viva, che importanza ha? Allora, nei luoghi che ho visitato è importante, perché molti dei ragazzi delle scuole di questi posti hanno sentito, se non dai racconti, dai nonni o dai parenti o così, quello che era successo. Quindi diciamo, quando io vado ad esempio a presentarlo in questo video in questi posti, c'è un attimino più di attenzione. Sì. Però ci vuole anche un po' di supporto da parte degli insegnanti, che spesso non c'è, ecco, ho trovato anche questo. Mentre nei posti dove non ci sono state cose di questo tipo è un po' più difficile, perché molti non conoscono assolutamente queste storie, e allora diventa difficile, perché li devi preparare, poi li fai vedere il video e poi eventualmente glielo spieghi, sicché spesso vedo che sono spiazzati, ecco. Mm-hmm. Non c'è stata sufficiente informazione, né a livello diciamo culturale sicuramente, ma anche e soprattutto nelle scuole. Questo sono convintissimo. Come mai la scelta di un titolo poetico, La brezza degli angeli? La scelta del titolo è una metafora, c'era già qualcosa che parlava del vento, come Guccini che quando parlava di Auschwitz, eccetera. Io ho un titolo più leggero per parlare di una cosa ancora più atroce, quando si parla di bambini diventa quasi impossibile. Diciamo è proprio sul poetico, perché ci sono i bambini, ecco. Sì. Stefano, per saperne di più sul tuo lavoro, anche rispetto ad eventuali proiezioni pubbliche, passaggi televisivi, forme distributive, ecco, hai un sito internet di riferimento? Allora, io ho postato il video su YouTube, che è assolutamente gratuito, fatto a 0 euro, tutti i patrocini dei comuni, province, regioni sono a 0 euro, questo ci tengo a dirlo, perché non c'è assolutamente scopo di lucro. L'ho messo su YouTube e si può vedere gratuitamente andando su www.labrezzadegliangeli.eu come Europa. Bene, allora qua facciamo così, che quando metterò la puntata in archivio la collego anche al link che hai dato tu su YouTube, quindi si potrà vedere tranquillamente. Sì, si può vedere gratuitamente già da un bel pezzo. Bene, bene. Stefano, io ti ringrazio, ci sentiamo per delle novità future, immagino e spero. Sì, sto già collaborando e sto preparando altre storie. Bene. E grazie a voi, io vi conosco da tantissimi anni, perché prima mi occupavo di musica underground, e allora per me è un onore essere ospitati da voi. Ecco. Benissimo, siamo contenti. Un abbraccio e a presto allora, Stefano. Grazie mille. Ciao. A tutti. Stefano Ballini, regista del documentario La Brezza degli Angeli, in visione gratuita su YouTube. Continuiamo a parlare di resistenza. Dopo La Brezza degli Angeli siamo in collegamento con Rita Bertoncini, che è regista del documentario Una Nuova Scintilla. Rita, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, grazie mille per questa opportunità e un saluto dalla Torri da Ferrara a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro sono rimasto sorpreso e anche divertito dalla telefonata che ti ho fatto l'altro giorno. Eri in un momento negativo e questa notizia, insomma, è stata una buona notizia, il fatto che ci fosse questo interesse per parlare del tuo lavoro, e insomma anch'io sono contento, ecco. Ma assolutamente, anche perché in Italia è molto difficile parlare di memoria, cioè secondo me nell'aria una polverina che si chiama smemorina e ogni volta che qualcuno cerca di lavorare sulla memoria ha i bastoni tra le ruote. Questo a me è successo sia per parte, diciamo, chiamiamola per intenderci, fascista, sia comunista, quindi avendo rotto le scatole ad entrambi probabilmente ho capito che ho fatto un lavoro decente, quindi mi piace l'idea di poterlo condividere, insomma. Partiamo dai primi passi che ti hanno portato a Una Nuova Scintilla. Raccontaci di questa storia, Rita. Dunque, nel 2010 ho deciso di fare sul serio con il documentario, quindi di trasformare la mia passione in un lavoro, anche perché avevo la vita sconquassata da tutti i punti di vista. Quindi o continuavo con il vecchio sistema, quindi vita d'ufficio, oppure facevo una virata decisa, che ed è stato quello che ho fatto. Quindi in un momento di difficoltà, guarda caso, scopro che mio nonno era stato partigiano e nella fattispecie uno stampatore clandestino. Chiaramente questa storia mi era stata assolutamente nascosta e negata dalla mia famiglia. Per tornare al riferimento di prima della polverina smemorina, sì. Anche nella mia famiglia non era stato considerato interessante o importante aver avuto un nonno comunque combattente, impegnato nella resistenza. Quindi ho cominciato a fare ricerche, mi sono incavolata tantissimo per questa cosa e quindi ho scoperto qual era il collegamento con la mia famiglia. Sì. Io, che mi sono sempre trovata tra alieni, mi sono trovata con delle somiglianze con mio nonno incredibili. Quindi è stato un lavoro molto sofferto anche dal punto di vista personale. Certo. Ho salvato memoria, quindi ho girato tutta la mia provincia intervistando i partigiani, le partigiane ancora ancora vive e vivi e lucidi di mente, e quindi ho fatto un lavoro di recupero immenso. Queste, ecco, interviste non sono finite tutte nel film, è ovvio. Quante persone sei riuscita a contattare? Sono riuscita ad intervistare 14 persone, sì, che sono purtroppo alcune, come dire, la natura ha il suo corso, quindi sono già andate. Tutte le volte che succede mi sento male, perché mi viene a mancare una parte di quella che poi è stata la mia vita, perché sono state interviste, ma poi questi grandi vecchi sono entrati nella mia vita, sono diventati nonni che poi non ho avuto, perché mio nonno, io partigiano, non l'ho conosciuto e ho perso i nonni materni presto, quindi sono diventati miei nonni. Tuttora quelli che sono ancora in forma vengono con me all'interno delle scuole, sia per la professione del film quest'anno o per parlare della loro esperienza, quindi sono tuttora molto molto attivi e sono nella mia vita come i miei nonni acquisiti. Sì. Quindi storia molto emotiva, scusate l'emozione, però è veramente qualcosa, certo, che tocca, certo, le viscere, certo. Quindi Rita, una volta raccolte queste testimonianze, come hai deciso di strutturare il tuo documentario? Guarda, il lavoro è stato lunghissimo, perché tutte queste interviste le ho spalmate in 3 anni circa, e poi ho fatto molte ricerche anche negli archivi. Non sapevo che negli archivi di Stato ci fossero tanti fascicoli della questura su queste persone che erano segnalate, alcune sono state anche veramente deportate. Mio nonno stesso è stato in carcere per le sue attività antifasciste, e adesso quel luogo, che non esiste quasi più, è diventato un museo dell'ebraismo e della Shoah qui a Ferrara, quindi ha avuto anche questo, diciamo, questo momento di dolore, questo luogo di dolore ha avuto una trasformazione insomma positiva. Io sono riuscita ad arrivare alla fine del film dopo diverse peripezie, chiudendomi in casa 4 mesi e scrivendolo completamente al montaggio, quindi mi sono trovata con una quantità di materiale immane, soverchiante, però sono riuscita con una disciplina tedesca e non uscendo di casa praticamente mai a finire questo lavoro, e devo dire la verità, è stata una liberazione, mm-hmm. perché ho trovato proprio le mie radici, quindi se sono una persona minimamente fiera di me stessa in questo momento, lo devo anche a questi grandissimi anziani, queste grandissime persone, sì. che ho potuto conoscere. Rita, ecco, nel lavoro hai alternato le interviste a materiali d'archivio? Sì, allora nella seconda parte c'è un episodio che non è un documento originale, perché si tratta di una fiction del 57 fatta da un paio di registi ferraresi su commissione di Ampi, quindi l'Associazione Nazionale Partigiani di Ferrara, e descrive un episodio che è successo, che ha avuto protagonista le donne di Bondeno, di una piccola frazione vicino a Ferrara, che per salvare i propri uomini, fratelli, mariti, fidanzati dalla deportazione, dal richiamo alle armi, presero il comune di Bondeno, bruciarono tutti i registri anagrafici e i registri di leva, quindi riuscirono, anche se rischiarono e finirono anche in carcere, rischiarono la vita, riuscirono a salvare la vita a molti dei loro uomini. Quindi questo documento è una piccola fiction, però è comunque un documento d'epoca, perché è stato realizzato nel 57, perso a Roma, poi ritrovato per volontà di una partigiana che si è interessata a questo e che ha rotto le scatole a tutti i politici possibili ed immaginabili per riuscire a ritrovare questo piccolo documento, ritrovato deteriorato, restaurato e poi, grazie a Dio, utilizzato tuttora, non solo nel mio film ma anche nelle scuole, quindi è una vittoria resistente anche questa. Ecco, mi hai parlato di presentazioni nelle scuole. Rispetto a proiezioni pubbliche, eventuali passaggi televisivi o distribuzioni, hai tuo sito internet dedicato al documentario? Allora no, io attualmente il documentario è interamente visibile sul sito del Via Emilia Doc Festival, dove è stato finalista nel 2014, quindi l'anno scorso, però dovendo sopravvivere, devo dire, faccio molta fatica, anche come donna sinceramente in questo mestiere, sì. non riesco io da sola ad occuparmi di tanti aspetti anche piuttosto difficoltosi, qui in Italia lo sappiamo tutti che la distribuzione è molto difficile, e poi penso che sia anche un lavoro un po' particolare, quindi il fatto anche che fosse in concorso il Davide Donatello quest'anno mi ha stupito moltissimo, perché è comunque un lavoro anche dal punto di vista stilistico che non capisco nemmeno io come definire, quindi non è sicuramente un prodotto spendibile. Nelle scuole invece è un'attività, è l'attività che prediligo, quindi mi interessa poco la distribuzione, le sale, le proiezioni, sì. perché è l'anello mancante, quello della trasmissione della memoria ai giovani, quindi è il terreno più fertile su quale lavorare, e per me è assolutamente appassionante, e quindi mi rivolgo soprattutto a questo tipo di realtà per diffondere questo film, che è stato proprio fatto anche dai giovani, sono stati coinvolti proprio anche nella produzione delle musiche, mi sono stati accanto, quindi devo dire la verità, l'ho pensato e rivolto a loro. E anche un po' se è efficace. È anche un po' il senso del titolo, che parte dalla tua esperienza personale e si apre un po' al futuro delle nuove generazioni. Esatto, questa qui è la mia scintilla personale, io vorrei che ognuno di noi avesse una sua scintilla personale di recupero, di memoria, di passione, di entusiasmo, che manca così tanto adesso. Perché se mettiamo insieme tante scintille sembra retorica, però riusciamo a fare un bel fuoco. Il fuoco di cui parlo è consapevolezza e senso critico, che sì. in questo momento forse questa operazione di rincoglionimento di massa, passatemi il termine, ha avuto veramente successo, quindi io sto cercando degli antidoti, personalmente il mio l'ho provato, poi lascio la libertà di ciascuno cercare il proprio, ovvio. Rita, è stato un piacere, speriamo di sentirci nuovamente. Ma grazie mille ancora, un saluto agli ascoltatori, scusate se le cicale in sottofondo hanno disturbato, ma non si riusciva a abbassare il volume. No, non ti preoccupare. Allora, speriamo a presto, dai. A presto, grazie ancora. Un abbraccio, buona ciao. Buona giornata. Ciao. Rita Bertoncini, regista del documentario Una nuova scintilla. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. È la volta di Paolo Lipartiti, regista del documentario Metamorfosi. Ci sei, Paolo? Sì, ci sono. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Tra l'altro poco fa ho sentito anche Massimo Vattani. Federico, ma già iniziamo, non ti sento bene, io sto in mezzo ai castelli romani qua. Io ti sento benissimo, forte e squillante. Non troppo. Vabbè, ci proviamo. Ce la possiamo fare. Allora, Metamorfosi, di cosa si parla, Paolo? Ci sei? Pronto? Federico, come ti dicevo, non ti sento. Se mi hai domandato qualcosa, non ho capito che mi hai chiesto. Metamorfosi, di cosa si parla? Cos'è la Okay. Metamorfosi, sì. Metamorfosi, come dice la parola, intende un cambiamento. Un cambiamento, una metamorfosi, una transizione che delle persone, la cui testa è stata in un corpo in qualche modo che non riconoscono, decidono di cambiare sesso biologico e passare a un sesso di elezione, quindi maschi che diventano femmine e femmine che decidono finalmente, prendono la decisione dopo un lungo periodo anche di sofferenza, ahimè, di diventare maschi. E per fortuna adesso anche la sanità italiana permette tutto ciò. Sì. Ci sei, Federico? Sì. Come no, ti sento con attenzione. Okay. Sì, questo è il nocciolo, diciamo, proprio il nocciolo alla base del film, del docufilm. Sì. E quindi si raccontano Stefania Zaini, un tempo Stefano, e Michi Formisano, un tempo Michela, raccontano tutto il loro percorso, quindi da questa loro infanzia, adolescenza, fino a quando per fortuna c'è il momento in cui decidono di cambiare, e quindi fanno un cambiamento in qualche modo proprio radicale, mentre invece poi ci sono persone, quindi abbiamo un ventaglio enorme per fortuna di sfumature, persone che invece decidono di rimanere in qualche modo nel mezzo, quindi come un'Elena Velena, per esempio, no? Una transgender bolognese che però ormai da anni vive qui a Roma. Sì. Una posizione, insomma, di mezzo, ecco. Sì, poi Elena Velena è un caso ancora di più originale, lei dice nel documentario, quindi un tempo era un lui, che ama tanto, così tanto le donne, che vuole essere donna anche lui, e quindi diventa transgender, diventa Elena Velena, ma al tempo stesso ha una compagna. Il suo orientamento sessuale poi alla fine è eterosessuale, lui da ex uomo continua ad andare adesso con una donna. Sì, quindi sì. Svariati possono sono le persone che hanno deciso di raccontare la loro storia, e questa è la cosa bellissima, Federico, che delle persone, quindi primo fra tutti Michi Formisano e Stefania, hanno deciso di donarci, è un vero dono che ci hanno fatto durante quelle serie di registrazione a casa mia, a casa di Sergio Cammarosa. Sergio Cammarosa, mio amico, collega, socio con me, fondatore con me di Androgeni Arte, appunto di Partiti Cammarosa, questa associazione culturale con cui abbiamo autoprodotto in maniera del tutto indipendente il docufilm. E quindi, come ti dicevo, hanno raccontato la loro storia, una sera a casa mia, una sera invece a casa di Sergio, perché appunto ci faceva piacere che non fosse un'intervista, ma un vero e proprio racconto. Sì. Persone che raccontano davanti ad altre persone quella che è stata la loro esperienza, e soprattutto dove ci sono delle teste, degli occhi, che sono pronti lì ad ascoltare tutta la loro storia e in qualche modo un po' anche identificarsi con loro. Senti, Paolo, lasci... Ho parlato troppo, Federico? No, per carità, non ti preoccupare. Senti, Paolo, la scintilla iniziale qual è stata? Quella proprio di mettere insieme storie e racconti, oppure parlare di una condizione più generale e un fare un lavoro di denuncia rispetto alla sordità delle istituzioni? Quale di queste opzioni? Guarda, tanti sono stati i livelli e sono tutti questi 2-3 che hai elencato te. Diciamo che però per quanto riguarda proprio la scintilla, subito mi viene in mente Dioniso è questo dio greco da cui ormai da anni che faccio degli studi su questo dio, sul dionisismo, e è il dio androgino per eccellenza, quindi che mi ha sempre affascinato, è un dio che viene scambiato anche per una fanciulla nonostante sia maschio, è un dio che si trasforma continuamente in leone, in toro, in serpente, e quindi tutto quel fascino appunto del metamorfosi di Ovidio, della trasformazione in sé, e quindi un po' da questo è partito, da questa mia identificazione un po' con questa divinità. Dopodiché è ovvio, mi andava assolutamente di sfatare in qualche modo quelli che sono tutti gli stereotipi intorno alla transessualità, come dice anche Stefania, la protagonista del film. Lei è una persona normale, no? Le piace utilizzare un po' anche questo termine, lei anche nella sua giovane età, insomma, perché dice, ecco, le prostitute, le transessuali sono sempre viste come delle prostitute che vanno con i clienti, che battono sulla strada, che fanno uso di coca, eroina, che spaventano le persone, e quindi avevo veramente il bisogno e la curiosità, poi soprattutto la curiosità, poi parte tutto da quello, di invece raccontare un'altra faccia della medaglia, insomma, dove veramente ci sono delle transessuali che casomai stanno veramente attorno a noi, hanno fatto tutto il percorso di transizione, che è un percorso lungo comunque, no? Sì, fatto di psicoterapeuta, cure ormonali, fino a quando insomma si arriva poi definitivamente alla transizione e all'intervento chirurgico, e mi andava appunto di in qualche modo lavorare sullo stereotipo, su questo stereotipo tremendo, sullo stigma insomma che colpisce un po' la transessualità. Al di là delle istituzioni, volevo chiederti, la società civile è pronta a queste identità in trasformazione continua, identità sessuali in trasformazione continua, e queste identità in trasformazione riescono a raggiungere un equilibrio di felicità o insomma di benessere in qualche modo? Allora, partendo dalla seconda parte della domanda, assolutamente sì, e quindi è quello stato il nostro intento, mio e di Sergio, quello di raccontare delle storie che fossero a lieto fine, ma insomma che appunto avessero questa componente di serenità, di riuscita, di benessere, quindi sia Stefania che Niki Formisano, ma con loro ovviamente molte persone che poi arrivano alla transizione, vivono bene. Niki Formisano sta con una compagna, una donna che è stata sposata con figli, vivono felicemente la loro vita, e appunto lui viene completamente accettato dalla società, ha scritto anche un libro, Resto Umano, che appunto parla della sua storia e sta portando in giro per tutta Italia, lo sto portando anche all'interno delle scuole, ma già comunque per fortuna il fatto che la sanità è italiana, quindi permette tutto questo, quindi ci sono dottori, medici, chirurghi che effettuano questo tipo di operazione, già vuol dire che comunque un passo enorme in avanti è stato fatto, quindi sì, mi sento di dire che ovviamente ancora il percorso è lungo, se no non ci sarebbero ancora il Pride che c'è stato da poco a Roma, in tutte le città italiane, dove non so se tu sai, non si chiama più Gay Pride, si chiama LGBT il movimento, sì. Quindi comprende tutta una vasta gamma di persone appunto che ancora rivendicano i loro diritti, quindi sicuramente ci sono dei passi ancora da fare. Per esempio mi viene da dire che l'Italia ancora non ha questa legge, cioè non ti spiego, nel senso che una persona può avere dei documenti con il nome cambiato, quindi con il nome di elezione, quindi uno Stefano può avere soltanto Stefania nel momento in cui fa radicalmente l'operazione, quindi toglie il membro, toglie i testicoli, e invece una persona che rimane ancora transgender, quindi rimane ancora nel mezzo, ma che vorrebbe questi documenti al femminile, io parlo per il caso della M2F, ecco che ancora non può averli. Quindi questa è una delle, ancora delle lotte che il movimento trans sta portando avanti. Però t'ho detto, le persone intervistate, ma ci sta una vasta categoria di persone transessuali che per fortuna adesso veramente non è più come un tempo dove l'unica via di scampo, l'unica via di uscita era la prostituzione. Adesso non è più così. Mm-hmm. Stefania fa la segretaria in un'azienda, si vuole sposare, sta cercando il fidanzato, una bellissima ragazza, ha fatto da pochi mesi l'intervento chirurgico, è andato ottimamente bene. E quindi insomma è questo che mi sentivo di raccontare, questa nuova realtà sul transessualismo. Sì. Senti Paolo, per fruire del tuo documentario c'è sul web un luogo adibito o per le informazioni più in generale? Allora, se qualsiasi persona in questo momento vuole, ha la curiosità di vedere il trailer, basta che va su YouTube, digita Paolo Lipartiti, Metamorfosi, e quindi appare immediatamente il trailer di 2 minuti del film. Dopodiché il sito, ahimè, è ancora in costruzione, però per quanto riguarda qualsiasi tipo di informazione, o Paolo Lipartiti o Sergio Cammarota, la nostra pagina Facebook, per chi ha Facebook, e lì ci sono tutte quante le informazioni, può tranquillamente chiederci il contatto e saremo veramente felici di conoscere persone che vogliono saperne di più. Comunque la prossima data è settimana prossima, siamo stati invitati da un collettivo di Alcamo in Sicilia, NPS, Network Persone Seropositive, che appunto erano desiderose di voler vedere anche il film, di proiettarlo nella loro città, e quindi venerdì 24 sera alle 21 saremo ad Alcamo. Benissimo, Paolo, un abbraccio e a risentirci presto. Ti ringrazio Federico, un abbraccio a te, grazie, un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie ancora. A presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Paolo Lipartiti, regista del documentario Metamorfosi. Fabrizio Bellomo, regista del documentario L'albero di trasmissione. Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito. Mi incuriosiva molto la tematica di questo tuo lavoro, raccontacela un po'. Ma è un lavoro principalmente su una famiglia, sì, e sulla famiglia, e più in generale anche sui rapporti familiari, visti come se fossero degli ingranaggi, parte di un congegno meccanico che poi appunto è la famiglia. Una famiglia particolare, quella che hai scelto come obiettivo della tua videocamera. È una famiglia legata alla tecnica, in cui il nonno è un ex perito meccanico, ma anche diciamo inventore per hobby, sì, che ha fatto una serie di macchine, oggetti meccanici particolari, alcuni di questi lui voleva anche brevettare. Poi non ci è riuscito per una serie di problematiche economiche, non solo, e ha trasferito questa sorta di ossessione della meccanica a tutta una parte della famiglia, cioè a uno dei figli che è diventato sostanzialmente un rigattiere scultore oggi. La famiglia si chiama famiglia Ciliberti e il figlio di cui sto parlando si chiama Simone Ciliberti. Simone è oggi un rigattiere scultore ex fascia carrozze e ha sostanzialmente raccattato dal padre questa ossessione per la meccanica, però con una distorsione, perché il figlio, anziché strutturare un discorso, quindi inventare cose utili legate alla meccanica, utilizza i pezzi meccanici per costruire delle sculture, quindi utilizza praticamente solo la forma degli ingranaggi e di tutti quegli oggetti meccanici iconografici che sono nella nostra memoria per fare delle sculture. Il nipotino più piccolo, che è il terzo tassello di questa discendenza genealogica familiare, segue tutte queste vicende col suo smartphone, fotografando e giocando a videogiochi che possono essere sempre molto vicini alle tematiche di cui abbiamo parlato fino a mo', quindi che ne so, un videogioco di una motocicletta, la cross, dei suoi percorsi o di altre macchine. Senti, come ti sei imbattuto nella storia di questa famiglia e come hai deciso poi di farne un documentario? Ma mi sono imbattuto girando per Bari in Vespa, semplicemente. Li ho incontrati, ho incontrato lo spazio del figlio di Simone, mi sono incuriosito e ho iniziato a passare del tempo con lui. Sì. Pian piano sono entrato in famiglia proprio, mi hanno presentato i vari personaggi, le varie persone, non i personaggi, che poi sono diventati i personaggi del film, ma mi hanno presentato appunto il nonno, il nipote, e ho iniziato a immaginare un qualcosa di filmico su questo progetto. Tra l'altro era il mio primo film e penso che non avrei mai fatto un film se non avessi incontrato loro. Senti, hai fatto questo parallelo tra gli ingranaggi della meccanica e gli ingranaggi che regolano invece i rapporti interpersonali all'interno di una famiglia. Ecco, in questa famiglia come vivono questi due piani? Beh, sono dei piani paralleli, appunto, per quello ho voluto enfatizzare il tutto all'interno della realtà cinematografica. Però sono due piani assolutamente paralleli, proprio per le distorsioni di cui ti parlavo prima, del prendere qualcosa dal genitore, assolutamente ritrovare delle radici, ma in quel ritrovare delle radici c'è sempre, quasi in tutte le storie familiari, c'è sempre una tensione anche. Quindi sto prendendo qualcosa da te, riconosco le mie radici, ma vorrei anche totalmente liberarmi da te, quindi non riesco a liberarmi. E in questa tensione, secondo me, si crea una distorsione poi di generazione in generazione delle capacità e delle conoscenze della generazione precedente. Mi dicevi del capofamiglia che ha provato anche a brevettare alcune sue creazioni. Ecco, ci sono anche dei risvolti sociali, nel senso, riescono a mostrare o a vendere o comunque a portare all'esterno queste loro creazioni? Ne hai elencati alcuni di questi personaggi che compongono la famiglia? Guarda, però che senso sociali, voglio capire? No, nel senso, hanno poi un pubblico questi lavori che creano o insomma restano all'interno della famiglia? Ma no, ma guarda, spesso no, infatti molto spesso mi piaceva definire tutta questa vicenda come una vicenda di magnifici perdenti, di splendide potenzialità, ma poi rimaste totalmente incastrate all'interno della penisola dove vivono, perché loro vivono in un quartiere di Bari che è peninsulare. Sì. In particolare, che si chiama San Cataldo, che è il quartiere del Faro, del porto, e si chiama anche quartiere Marconi, perché Marconi da lì ha fatto degli esperimenti telegrafici col Montenegro a inizio Novecento. Poi, rispetto alla meccanica, il film appunto si chiama L'albero di trasmissione, che l'albero di trasmissione appunto è un congegno meccanico che trasferisce l'energia prodotta dal motore alle ruote motrici. Quindi è in qualche modo l'albero di trasmissione di questo film, è il nonno, il capofamiglia. Senti, poi ho visto delle foto di scena in cui ci sono comunque questi oggetti meccanici che riempiono uno spazio esterno, quindi c'è comunque una convivenza tra i componenti della famiglia e tutta questa oggettistica che occupa un notevole spazio, immagino. Sì, sì, assolutamente, vivono sommersi da una quantità innumerevole di oggetti, assolutamente. Soprattutto nella generazione più grande, quindi del nonno, c'è un valore che viene dato alla materia ancora molto forte, e anche in quella del figlio, tutto sommato, quindi si vede questo valore che viene dato all'oggetto, al materiale, ma non all'oggetto in senso capitalistico del termine, insomma. Sì, quasi a livello di collezionismo, insomma. No, non di collezionismo, di forza lavoro che è stata usata e utilizzata per costruire quegli oggetti, anche se non propria, rispetto verso quello la fatica altrui. Assolutamente. Senti, che tipo di percorso ha fatto il tuo documentario? Ha girato per festival e prossimamente cosa succederà? Allora, il film l'abbiamo presentato il 4 dicembre anteprima al Festival dei Popoli di Firenze. Esatto. Dopodiché il 6 dicembre è andato al filmmaker di Milano. Sì. E il 22 luglio, cioè settimana prossima, mercoledì prossimo, facciamo finalmente una prima pugliese e quindi lo portiamo alla Festa del Cinema del Reale di Specchia, in Salento. Pensa, ho sentito all'inizio della trasmissione Paolo Pisanelli per lanciare proprio la Festa di Specchia. È una festa bellissima, cioè è veramente un bel momento la Festa del Cinema del Reale, sono molto affezionato. Sì. È un bel momento, un'atmosfera molto bella. Infatti sono contento che lo portiamo lì a fare la prima pugliese, nonostante io sia di Bari, lo portiamo a Lecce. Sono molto contento. Senti, c'è un sito internet, una pagina Facebook per l'albero di trasmissione? Sì, c'è una pagina Facebook che è la pagina Facebook, basta cercare l'albero di trasmissione. Poi c'è una pagina web, insomma un sito web. Si chiama, aspetta che me l'ho segnato, un attimo solo. Sì. È alberoditrasmissione.tumblr.com. Okay. E dopodiché volevo anche dirti un paio di altre cose. Come no? Il 6 agosto saremo invece in Basilicata presso un'associazione culturale che si chiama Vincenzo De Luca, ed è un'associazione culturale che si occupa di arte contemporanea all'Atronico, e ogni anno invitano gli artisti per questo festival che si chiama A Cielo Aperto, organizzato da due artisti che si chiamano Pasquale Campanella e Bianco Valente, e ci hanno invitato a fare una proiezione del film all'Atronico il 6 agosto. E un'altra notizia, un'altra insomma informazione, notizia che volevo darti, volevo darvi, era relativa invece che da questo film ora sta nascendo un piccolo libro, un piccolo volume, edito da una editrice tra l'altro romana, che è Linaria. Sì. E uscirà a settembre. Quindi dal documentario al libro. E ricordiamo una cosa inversa, curioso. Senti Fabrizio, in chiusura ricordiamo la prima data disponibile, che è quella in Puglia per la Festa di Cinema del Reale? Assolutamente. Specchia, 22 luglio, ore 22, Festa del Cinema del Reale. Benissimo. L'albero di trasmissione. Un abbraccio Fabrizio e alla prossima. Grazie, ciao Federico. Ciao. Fabrizio Bellomo, regista del documentario L'albero di trasmissione. Eccoci qui per un altro collegamento, per l'ultimo di questa settimana. Tiziana Cipelletti, produttrice del documentario Brera, un'altra storia, che proviene da una serie di lavori che ho contattato relativamente al Via Emilia Doc Fest. Tiziana, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Filippo. Mi interessava, mi incuriosiva questa storia, raccontacela un po', Tiziana. Allora, Brera una storia nasce da un progetto che è partito in realtà nel 2011, promosso dalla soprintendenza di Milano, dalla sezione didattica in realtà della Pinacoteca di Brera, e che ha visto una serie di esperti di pedagogia del patrimonio lavorare intorno al racconto di un'esperienza che ha visto l'educazione alla multiculturalità, diciamo così, incentrata sul museo. Cioè sono stati invitati alcuni esponenti volontari delle nuove comunità residenti a Milano. A loro è stato offerto un corso semestrale sulla di storia dell'arte dell'Occidente, poi è stato chiesto loro di selezionare con una metodologia biografica alcune opere che per affinità o per contrasto, alcune opere della Pinacoteca che per affinità o per contrasto avessero una relazione con la loro storia. Sì. E di raccontarle alle loro comunità. Allora, l'obiettivo principale era nella teoria, quella di avvicinare un nuovo pubblico, sì, dando quindi accessibilità a un pubblico che normalmente non ha voce e non è presente nelle pinacoteche. Quello che è successo, perché come sempre i programmi sulla carta hanno un effetto e poi nella realtà, sì, hanno un altro, sì, è che questo che Brera un'altra storia è diventato in realtà un'accessibilità per noi, nel senso che la lettura che i rappresentanti delle 8 comunità, dire il vero, comunità peruviana, bosniaca, egiziana, Senegal, filippina, eccetera eccetera, hanno dato delle nostre opere, hanno reso vive ai nostri occhi dei capolavori che sono con i quali in realtà conviviamo da sempre e che forse non vediamo più, quindi nuovi sguardi, nuovi racconti, nuove letture. Mm-hmm. E questo è stato veramente il portato rivoluzionario. Ti posso fare un piccolissimo esempio, la lettura, sì, tra l'altro il video, il documentario che ha partecipato ad alcuni festival è accessibile su Vimeo, se qualcuno è interessato posso dare la password, insomma basta scrivere a Story Video, siamo ben contenti di condividere il progetto. Sì. La lettura che ha dato, che ne so, del Cristo del Mantegna, quel scritto reclinato sulla tavola del Mantegna, sì, Almir San Martín, che è un profugo peruviano, è stata molto interessante, perché quando lui ha visto il Cristo disteso sulla tavola con i piedi feriti in primo piano, sì, ha detto: per noi di cultura andina ferire i piedi vuol dire veramente volere il male, vuol dire, per una popolazione che è fondata sul cammino, sul collegamento da un villaggio all'altro a piedi, ferire qualcuno ai piedi vuol dire veramente mettere a repentaglio un'intera comunità, un'intera famiglia. Mm-hmm. E poi dalla sua tasca, assolutamente in modo inatteso, ha estratto un ritaglio di giornale in cui c'era Che Guevara e ha detto: per tutta la popolazione sudamericana questo Cristo reclinato non può non ricordarci questa immagine, in realtà ricomposta poi dagli Stati Uniti, insomma dagli americani del CE, e questo per noi è stato un vero colpo al cuore. E da allora ti assicuro che ogni volta che passiamo davanti al Cristo del Mantegna a Brera non possiamo non ricordare le parole di Almir. Quindi questa esperienza in realtà che aveva come primo obiettivo quella di portare nuovi pubblici normalmente esclusi, e quindi si, sì, parlava di strumenti, sì, sì, di, sì, dialogo, interculturalità, in realtà si è trasformato in uno strumento potentissimo di avvicinamento per noi che a queste immagini siamo ormai abituati e che difficilmente ci raccontano qualcosa di nuovo. Quindi e questo è un progetto della soprintendenza e di una serie di esperti. Noi abbiamo filmato abbastanza con improvvisazione tutto questo, è nato a aprire un'altra storia fatta da, cioè, con la regia e la regia operatore Stefano Conca, e vorremmo condividerlo, perché sono convintissima che questo tipo di esperienza si possa per contagio diventare di tanti musei italiani. Ecco, proprio in base a questa sorpresa di cui mi parlavi, immagino che il titolo sia successivo alla realizzazione del documentario. In realtà è stato contestuale, nel senso, sì, che noi abbiamo girato a Brera l'ultima sessione di narrazioni. Sì. E la parola storia, che è duratissima, storia, storytelling, ma non ne abbiamo trovata una meglio. E un'altra, sì, e un'altra è perché un'altra, con la stessa identica dignità, ma che ha fornito a noi la possibilità di guardare con occhi nuovi. E poi se verranno nuovi pubblici, benvenuti, ma è stato l'effetto inatteso che ci ha stupito, insomma. Oh, rispetto all'incontro di queste 8 comunità milanesi con le opere d'arte, in particolare quelle della Pinacoteca, come avete strutturato il documentario? Come si offre alla visione? Allora, abbiamo in realtà raccontato nella prima parte incontrando loro in un contesto che non è quello museale, sì, quindi una piccolissimo overview delle loro vite. Dudu lavora in una scuola, Almir si dà da fare con le comunità di ragazzini di recupero. Biliana si occupa di integrazione delle donne dell'est europee, per cui è una piccola avvio. E poi siamo passati a una sorta di drammatizzazione, in quanto loro nel museo affrontano, incontrano l'opera e quindi le loro biografie si mischiano in realtà alla vicenda che l'opera racconta. Sì, quindi è divisa sì. in una prima parte di presentazione dei sei protagonisti, dei sei ciceroni internazionali, e poi li abbiamo ripresi dal vivo, per cui con il pubblico mentre offrivano i loro racconti nella Pinacoteca. Senti, le opere d'arte che effetto hanno su persone che vengono anche da culture piuttosto differenti, a livello emozionale e a livello cerebrale, quale magari ha più peso sull'altro? Ma faccio fatica a fare una distinzione, nel senso che comunque nel documentario noi abbiamo, montato la parte ovviamente in cui c'è più drammatizzazione, sì, in cui le loro vite vengono, messe allo scoperto dall'incontro con una raffigurazione. In realtà loro sono stati formati e conoscono benissimo, non so, dalla vicenda di Piero della Francesca o piuttosto quella di Raffaello. Il tema è che siamo entrambi, sia noi che i nuovi ospiti della Pinacoteca, siamo entrambi abbiamo le stesse difficoltà a entrare in un... Cioè, lo sposalizio di Raffaello non era fatto per stare in una pinacoteca, e neppure l'opera di Piero della Francesca, per cui abbiamo la stessa difficoltà a entrare in un'iconografia che non è di questa epoca. Sì, e quindi sì. insieme troviamo una lettura, e il metodo narrativo, loro sono stati formati contestualmente da storici dell'arte e da un'esperta di narrazione. Allora tutto il progetto era sotto l'egida di Patrimonio Intercultura, che è una sessione di ICOM Italia, sì, che cerca nuove modalità di narrazione e di aperture e di accesso al patrimonio. Quindi credo che loro, come noi, partiamo da alcune conoscenze storico-artistiche, sì, e quello che hanno avuto il coraggio di mischiare la loro vita al racconto dell'opera, sì, anche perché è stato loro chiesto di scegliere se per affinità o per contrasto qualcosa che parlasse loro. Dudu, che è un meraviglioso musicista senegalese, ha dovuto cercare a lungo nella Pinacoteca fino a che ha trovato qualcuno di colorato tra i tre re magi. No. Quindi è stato piuttosto divertente anche questo. Senti, allora in rete a questo punto, per saperne di più sul documentario e anche su eventuali calendari. Allora noi abbiamo, sì certo, ti dico, noi abbiamo partecipato a quel bando che fare, proprio perché avremmo voluto creare un modello adattabile viralmente ad altri musei, quindi c'è una pagina Facebook che si chiama Voto un'altra storia e sulla pagina Facebook c'è un trailer. Altrimenti è accessibile su Vimeo, non lo so se vuoi ti posso dare il numero e la password, sì, per chi lo vuole vedere, comunque vimeo.com/ 90363022 e la password è DUCK come anatra 23, DUCK23. Benissimo, tanto poi metto anche il podcast, per cui chi non ha potuto prendere nota lo può fare tranquillamente appena sarà online. A questo punto, Tiziana, io ti ringrazio, un po' di riferimenti ce li hai dati, ci spero di sentirti nuovamente per le prossime novità. Volentieri, grazie, buon lavoro. Federico. Un abbraccio, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Tiziana Cipelletti, produttrice del documentario Brera, un'altra storia, e con questo collegamento termina la puntata settimanale di Visionari. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio a Visionari, scusate, a Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.